buongiorno Aldo. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Charge down by Sissoko. Rudy, little flick, Timmy! What price that goal! In Manchester United's bid to win the lot. It looks like they will have a lead to take to Porto. And it's Carlos Tevez who comes off the substitute bench tonight to be the hero. E va bene, Dio. Vuoi che parli con te? Allora rispondimi, dimmi che cosa succede, che cosa devo fare? Io sempre sono tranquillo, anche non faccio gol in Champions. Oh, io ho bisogno della tua guida, Signore, ti supplico, mandami un segnale. Ho bisogno di un miracolo, sono disperato, ho bisogno del tuo aiuto, Signore, ti prego, entra nella mia vita. Attenzione all'inserimento di Asamoah, lo cerca Tevez, Asamoah il tacco, attore, Tevez, rete, rete! 1988 giorni dopo, Tevez torna con il Champions League. Marchisio e Casares a fare la schema in barriera, parte Tevez, rete! Ancora la Pascia, il digiuno è proprio finito, doppietto della Pascia, 2-0 della Juve. Eccezionale! Siamo ai limiti del blasfemo, comunque oggi con la costruzione sonora di Franco Piantanita, Roberto Scaltriti in regia pure colpevole, Claudia Schettoni in redazione, non si salva nemmeno lei. Ciao Pardo. Ciao, siamo ben oltre il blasfemo. Scusa che ho oltre la chiamata del lunedì. No, vai tranquillo, volevo sapere dove eri, con chi eri, cosa stavi facendo, era giusto una telefonata di controllo. Leo, eh? Con Fausta e Leo. Sì? E che fai? Cosa fai oggi? Che faccio? Oggi vado a stasera vado allo stadio. Vai allo stadio? E domani faccio il Napoli. Ho fatto questa tappa intermedia che sì. mi sembra giusta. E, di andare a vedere l'Inter non te la sentivi? Beh, lontana e poi soprattutto in contemporanea faccio il Napoli, però insomma. Sì. Però se c'era da scegliere meglio evitare, no, meglio evitare le zone di guerra. Assicurazioni, sì. Ho visto. L'UEFA da questo punto di vista è particolarmente attenta, quindi sì, non credo che vada a esporre nessuno i propri delegati. No, ma poi ormai si gioca tutti da quelle parti, giocano a Kiev, che è zona protetta, dunque non, però è una suggestione non da poco, insomma. Quello che sta succedendo da quelle parti e il viaggio che l'Inter farà ai confini della guerra. Però siamo partiti dal blasfemo. Io credo comunque in queste cose di Cabala, io ci credo. Secondo me Tevez farà una grande stagione. No, 7 aprile 2009, ultimo gol, aveva rotto lo specchio, la cappa di vetro, non so, chiamala come vuoi, in Europa League, adesso doppietta in Champions per far volare una Juve non bellissima nel primo tempo, l'hanno detto tutti, lo stesso Allegri, però quello che conta sono questi due gol di Tevez, credo che, proprio perché sono confido in queste cose, farà una grande stagione europea. Io penso di sì, spero di sì, è un giocatore che mi fa impazzire. Un giocatore fantastico, con Higuaín secondo me è il miglior attaccante del campionato, diciamo il più tra quelli internazionali, tra quelli che sono arrivati da fuori dal punto di vista anche mediatico delle stelle, insomma, sì. Del talento puro. L'avevamo detto credo ieri, comunque dietro a questo lunghissimo digiuno di quasi 2000 giorni c'erano anche delle cause particolari, c'erano stati dei litigi, dei momenti in cui aveva giocato poco, il Manchester City... un'esperienza con la Juve l'anno scorso non troppo fortunata, perché comunque la Juve ha giocato 6 partite l'anno scorso, non ha giocato 13, quindi insomma sì, sono tante cose, insomma, ecco, e pensare che Tevez non fosse un giocatore europeo, è un non senso, no? È chiaro che è una cosa senza senso se un giocatore come Tevez, insomma, che ha segnato con tutte le maglie su tutti i campi del mondo eccetera eccetera, è chiaramente uno scherzo dei numeri il fatto che non segni per no, prima sono stati ricordati quanti giorni, 7 aprile 2009 fino a ieri in Champions League. Comunque, alla fine, voglio parlarne con te, con tutti gli ascoltatori, dopo il traffico che sta arrivando. Siamo partiti depressi, adesso non c'è la ragione per fare le capriole, però intanto abbiamo visto in giro sui campi d'Europa l'Ampi d'Italia, i due di Tevez, e va bene, ne stiamo parlando, poi il gol di Balotelli, l'1-0 a Ludogorets in una brutta partita del Liverpool, anche finito in modo strano, il meraviglioso gol di Immobile contro l'Arsenal, i 5 del Real di Carletto Ancelotti che ha ammutolito i fischianti, ci sono stati fischi per Prandelli nell'1-1 del suo debutto del Galatasaray, l'euro debutto di Cerci sul prato dell'Olympiacos, che sarà qualcosa di serio, io credo, in questo girone. E a proposito, non un grandissimo risultato per la Juventus, il 3-2 tra l'Olympiacos e il vicecampione d'Europa dell'Atletico Madrid. So cosa sia questa Champions, ecco. È una parola inglese che non so a che cosa alluda. Carlito Tevez, quiero agradecerte los hermosos momentos que nos haces vivir a todos los que nos gusta el fútbol. Además de esa alegría y el coraje con que esta canción es para vos, hermano. Quanto ti senti più leggero dopo questi due gol, questo tabù Champions che sei riuscito a rompere? No, ma vostro che mio, io sempre sono tranquillo, anche non faccio gol in Champions, sempre chiedo che mia squadra prima vinca la partita e dopo sì fare il gol, ma io sempre sono tranquillo. Sì, è stato molto importante di partire bene per una volta, altri due anni siamo sempre partiti abbastanza male, a parte il 2-2 a Londra contro Chelsea, non è male, però soprattutto l'altro anno la partita è stata un po' simile con tante occasioni come l'anno scorso, quindi dobbiamo essere un po' più cattivi nella box e anche più precisi nell'ultimo passaggio. Io voglio chiedere, non a Pierluigi Pardo perché lui la sa, voglio chiedere a Mirko Graziano, inviato dalla Gazzetta dello Sport, se sa chi canta. No, non lo so. No, non lo sai? No. Te lo faccio dire da Pardo. Ma non lo so neanche io. Lo sapevo, ti ho teso una trappola, caro Pierluigi. Il signor Gente. Ti ho teso un trappolone e tu ci sei cascato. Allora, questi sono Carlito Tevez e i suoi amici del Barrio. Mega male. Non so dove le va a pescare Piantanida, ma comunque c'è Max da... Ah no, la Schiattone l'ha pescata, ragazzi. Alto livello qua. C'è Max da Milano che chiede a Pierluigi di parlare, lo farà dopo, della grande impresa di Vilas Boas che alla guida dello Zenit ha vinto sul campo del Benfica, dopo lo faremo. Intanto con Mirko Graziano parliamo di Juventus e voglio ritornare dove avevo chiuso prima del traffico. Sarà già molto importante, Mirko, per la Juve la partita a seguire, cioè quella sul campo dei vicecampioni d'Europa d'Atletico Madrid, che ieri hanno perso contro l'Olympiacos. Non un bel risultato per la Juventus questo. Ma guarda, sì, è una valutazione fatta da parecchi tifosi della Juventus, però bisogna capirsi bene. O la Juve vuole ragionare in grande e allora ha la grande possibilità di vincere questo girone, cioè il risultato di Atene apre le porte alla vetta del girone, la vetta finale, oppure va bene, ok, ragioniamo sul secondo posto e allora può essere un risultato abbastanza scomodo. Però la sconfitta dell'Atletico ad Atene apre le porte alla possibilità di andare a vincere questo girone. Io mi ricordo solo al Mondiale quando c'è stata la vittoria, la sconfitta dell'Uruguay contro Costa Rica. È vero che lì era un girone solo andata, non andata e ritorno, quindi con delle dinamiche un po' diverse, che se tutti diceva questo risultato con la vittoria dell'Italia è perfetto, siamo già passati, invece in realtà sì, certo, è un pochino più incasinata la situazione perché è chiaro che l'Atletico Madrid non mollerà tanto facilmente, però insomma io penso che sia... Non lo vedo benissimo in realtà. Appunto, non lo vedo benissimo e forse viene anche da pensare. Io ieri a un certo punto ho pensato al nostro povero calcio italiano, perché carità, la Juve vince 2-0 contro il Malmo. Ho pensato che l'Arsenal che stavo commentando contro il Dortmund faceva abbastanza orrore, che il Liverpool non riusciva a sbloccarla con Ludo Goretz, che l'Atletico Madrid perdeva, insomma, poi ci sono delle volte nella vita che magari anche gli altri grandi sbagliano e piangono, no? Quindi la voglio anch'io interpretare come dice Mirko, può essere un'occasione, c'è un'occasione nonostante rientri, ovviamente entri prepotentemente in gioco quella che deve essere la terza forza del girone, cioè l'Olympiakos. No, quindi, assolutamente. Cioè, assolutamente. Se si diceva se la giocano Atletico e Juventus, adesso no, probabilmente l'Olympiakos se la giocherà fino in fondo, anche perché che fosse una buona squadra si sapeva, andare a vincere sul campo è molto difficile, questa è quasi una banalità. Però sai, se parti con Atletico che vince la girone mezzo indirizzato, e poi è vero che se la giocano Atletico e Juve, però ripeto, non mi è sembrato un grande Atletico. Cerci ha debuttato partendo dalla panchina così, non benissimo, diciamo che si deve ancora ambientare, diciamo così. Intanto vi chiedo a entrambi, Mirko e Pierluigi, io ho visto, non so se potete condividere questa impressione, ho visto un po' più di Allegri nella Juventus di ieri, senza il cuore e la mente del centrocampo, Pirlo e Vidal, infortunati, ecco i cavalli sulle fasce, vecchia idea di Max. No, sicuramente, comincio io per Luigi, mi sono arrogato. Sicuramente c'è molta Allegri, ma dall'inizio di questa stagione è un 3-5-2 diverso quello di Allegri rispetto a quello di Conte. Allegri punta molto di più al possesso palla, ha un ritmo, punta a rallentare il ritmo più volte durante la gara, punta a gestire un po' di più il risultato e in effetti è infatti, anzi, in difesa rischia molto molto poco. La Juventus in tre gare ufficiali ha subito solo due veri tiri in porta, uno nato da un rimpallo, quello famoso di Maxi Lopez col Chievo, e l'altro ieri sullo 0-0. Poi lì è stato bravissimo Buffon, quel che si dice, insomma, il portiere della grande squadra deve intervenire una volta a partita ma deve essere decisivo, ecco, Buffon lo è stato. Sì. Però è una squadra molto più attenta, magari meno arrogante in campo di quella di Conte. Quella di Conte ti pressava dal primo all'ultimo minuto, ti veniva ad aggredire in ogni zona del campo, ecco, questo è un po' più ragionato, è un 3-5-2 un po' più ragionato, ed è per questo che c'è sì la mano di Allegri su questo 3-5-2, assolutamente. Sì, mutuando la difesa solida che Conte già aveva, Pierre. Certo, assolutamente, beh, l'impalcatura è quella e lui quindi ha sfruttato molto bene il grande lavoro fatto nei tre anni di Conte, assolutamente. Ma anche perché gli anni di Conte sono stati straordinari, ma l'abbiamo detto, c'è il sospetto anche che siano stati vagamente logoranti, sì. Esatto. Come succede con i grandi allenatori, come succede anche con Mourinho, quindi Allegri secondo me dovrà essere bravo in questo mix, nel senso che dovrà da un lato chiaramente non snaturare la fisionomia di gioco della squadra, però anche inventarsi delle soluzioni adatte secondo me magari per far respirare un pochino di più i giocatori, per ci vorrà sensibilità, ma secondo me ce l'ha. Io mi ricordo i discorsi di metà luglio e io sono sempre convinto che chiaramente di fronte a una pessima notizia, cioè l'addio di Conte, la Juve abbia trovato però delle risposte assolutamente credibili. Le ipotesi erano Allegri o Mancini, non si scappava, e hanno preso Allegri, e secondo me Allegri è un buon allenatore, è arrivato con una brutta patente, è arrivato con un'immagine non straordinaria per l'ultima stagione soprattutto, però in realtà è un allenatore di livello, è un allenatore per il quale Galliani un anno fa, nell'estate del 2013, si è giocato il posto, diciamo, no? Ecco, ha rischiato, no? Ha rischiato il suo. Quindi vuol dire, al di là del rapporto personale che sicuramente è splendido. Senti Pier, ma secondo te si riproporranno i problemi tra Allegri e Pirlo? I problemi tra Allegri e Pirlo secondo me sono stati un po' sopravvalutati, poi è chiaro che con quello che ha fatto Pirlo negli anni, Allegri comunque la figura, faccio una battuta, non me ne vorrà del Pirla, il gioco di parole, no, non posso non farlo, è chiaro che poi è un po' l'ha fatta, perché è chiaro che è passato alla storia come quello che ha avallato questa cessione, e Pirlo poi ha fatto il fenomeno. Perché anche però è vero. Io me la ricordo quella situazione lì, non è che Allegri l'ha cacciato. Allegri, di fronte a una richiesta economica importante di Pirlo, a una contrazione dei costi legittima del Milan, che pensava, è un giocatore che sembrava in quegli anni lì in fase un po' calante, ha semplicemente accettato e aderito all'idea della società che ha pensato bene di non rinnovare il contratto. Pier, guarda, poi, posso dire la verità lì è che Allegri è stato tra virgolette aziendalista e ha preso lui tutte le colpe. La realtà è che il Milan a Pirlo offriva un anno di contratto a costi contenuti e la Juve gliene offriva tre. Faceva comodo al Milan e faceva comodo a Pirlo, tra virgolette naturalmente, scaricare la colpa su Allegri. Allegri se l'è presa tranquillamente ed è passato lui per Pirla. In realtà le incompatibilità caratteriali, le incompatibilità tecniche sono completamente un'altra cosa. Esatto, Allegri, esattamente, se avuto esattamente. In questi anni al Milan l'avrebbe certo. fatto giocare io esattamente non... Beh, ma sai, questo è chiaramente un caso di incompatibilità caratteriale che poi è diventata tecnica nei fatti, cioè è diventata personale nei fatti. Non è un caso di incompatibilità caratteriale, io sono sicuro di questo, ho le prove. Cioè non è che Pirlo e Allegri hanno litigato. Esatto. No, però Allegri a un certo punto l'ha messo ai margini di quel disegno del Milan. Ha detto, era infortunato, va bene, il Milan cominciava ad andare bene senza Pirlo, diceva non voglio un giocatore così centratore e ha provato a trovare delle soluzioni alternative. Poi c'era in ballo il contratto, c'erano in ballo mille altre cose, chiedeva un contratto lungo con molti soldi e il Milan ha fatto la fesseria di lasciarlo andare alla Juventus. Questo è il discorso. Adesso vediamo, io non credo che ci sarà una guerra fredda tra Pirlo e Allegri. Mirko Graziano, per salutarti, non credo. No, assolutamente no. Poi non dimentichiamoci che quell'anno Allegri ha vinto lo scudetto. Sì, l'anno del scudetto, certo, di Pirlo, certo. E quindi voglio dire, non c'è assolutamente, io sono d'accordo con Pirlo, non c'è assolutamente incompatibilità caratteriale, di sicuro. Può esserci durante la stagione la necessità tattica, a volte in alcune partite, da interpretare in un certo modo, di rinunciare a Pirlo, ma anche perché Pirlo ha 35 anni e andrà gestito in un certo modo, ma vi posso garantire che a un giocatore come Pirlo non ci rinuncia nessuno. Lo stesso Conte, che aveva ben altre idee tattiche per il suo centrocampo, sia nell'ultima Juventus sia in questa nazionale, ha preso atto che un giocatore come Pirlo, insomma, vale la pena costruire una squadra attorno a un giocatore come Pirlo. Sì. Quindi qui parliamo di un assoluto fuori classe che finché ti garantisce 20 gare di un certo livello, bene, in quelle 20 gare è un giocatore che tu devi far giocare. Parliamo di allenatori intelligenti, non sono dei kamikaze. No, ma è chiaro. Comunque, scusa, è chiaro. Una cosa che secondo me è dirimente, quell'estate lì io non ricordo manifestazione di piazza dei tifosi del Milan per non vendere Pirlo, perché in quel momento lì, e io ero fra quelli, la cessione di Pirlo, il mancato rinnovo del contratto sembrava un'economia fatta nei confronti di un giocatore eccezionale, ma io ero pure tra quelli. Questo è quello che è successo. Io ero pure tra quelli che probabilmente si sbagliavano, anche se l'errore capitale onestamente è stato quello di andare a rafforzare in questa maniera la Juventus, la controparte. Mirko, grazie. Pier Stali, grazie, ci sentiamo dopo la borsa. 800 24 00 24. Non ho niente contro Carolina Costre, lei lo sa, ho solo detto cosa avrei fatto io se mi fossi trovata a scoprire che il mio fidanzato si dopava. È un tweet di Federica Pellegrini, cosa avrebbe fatto se scoprendo che il fidanzato si dopava, l'avrei mollato. Sono fortunato e con Andrea non ci sono mai stati assolutamente problemi e mai ho messo in discussione le qualità di Andrea, anche perché veramente mi darebbe del matto. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Lo stavo leggendo, Pierluigi, prima di parlare con gli ascoltatori che sono già in linea, Giuseppe e Francesco. Stavo leggendo una sorta di vademecum, di consigli che lo Sparta Praga ha piazzato sul suo sito, indirizzato ai propri tifosi che vogliono andare in trasferta a vedere Napoli o a vedere la partita, eccetera, a fare del turismo. Recita così: se si decide di visitare la città prima della partita, si consiglia di spostarsi in gruppi piccoli e di non andare da soli. Cercate di non attirare l'attenzione soprattutto sui mezzi pubblici indossando magliette e sciarpe dello Sparta. A Napoli c'è un alto tasso di criminalità, per cui si sconsiglia di portare oggetti di valore con voi. Evitate tracolle e zaini nei quali i borseggiatori locali possono rubare. Evitate i quartieri di Forcelle, quartieri spagnoli dove in passato i tifosi ospiti sono stati aggrediti. La polizia locale mette in guardia contro possibili conflitti, non solo con i fan del Napoli. Sì, è tutto normale, sono consigli sensati, fa un po' di impressione leggere, anche se lo Sparta Praga viene a Milano, sono consigli che possono essere... No, ma sono consigli assolutamente civili, in certi casi condivisibili, nel senso che comunque sappiamo bene che in generale, non soltanto a Napoli, se vai in trasferta e trovi qualche cretino, Ci può stare, quindi, che poi sai, soprattutto quando si parla d'Italia in generale, quando si parla di Napoli in particolare, i luoghi comuni, no, proliferano. Io posso dire proliferano, sì, sì, per quella che è la mia esperienza personale, che sono stato a Napoli un centinaio di volte della mia vita, forse di più, nessuno mi ha mai rotto le scatole, nessuno mi ha mai fregato niente, e questa è la mia esperienza personale. Poi sì, chiaramente la città ha dei problemi enormi, però certo. Io salutiamo sempre il signor Antonello, eh? Sì, no, faccio il signor Antonello, ma no, voglio dire, lo salutiamo, Paesano, insomma, altissimo livello. Magro, tra l'altro, dimagrito ormai. No, voglio dire, insomma, che noi almeno fra italiani, secondo me, cerchiamo di raccontare la realtà così, sì, come al netto poi del fatto che ci sono problemi. No, ma sai, no, ma sto parlando del luogo comunismo, non di altro. Ascolta, sempre Giuseppe Francesco, state lì, che volevo chiudere un ragionamento con Pierluigi sulla base di un SMS. C'è un ascoltatore che dice: ma se state enfatizzando in questo modo una vittoria della Juventus in casa con il Malmo, allora il calcio italiano è messo proprio male. Tu ieri sera dicevi, hai visto l'Arsenal che non è messo benissimo, il Liverpool con Ludogorets, poi ne parliamo anche, non benissimo, l'Atletico Madrid, ne abbiamo detto, lo Zenit che vince sul campo del Benfica, l'ascoltatore chiedeva un commento su questo, 2-0 per lo Zenit. Beh, insomma, anche gli altri. Super Hulk. La vera sorpresa della serata di Champions League, ma sono d'accordo sul fatto della... Ma secondo me la sorpresa è stata la fatica però, che ha fatto il Liverpool con Ludogorets, vincendo in quel modo strano. Appunto, sì, ma infatti poi siamo in Champions League, l'esperienza dell'anno scorso lo dimostra in maniera abbastanza drammatica proprio per quanto riguarda la Juve, che può far fatica contro chiunque. Quindi la vittoria di ieri non è stata nemmeno perfetta, la Juve del primo tempo è stata abbastanza involuta, non bellissima, però insomma, di questo oggi parliamo, perché ieri c'è stata una partita in Champions League, la Juve l'ha vinta, l'avversario era il Malmo, non è che lo potevamo far diventare più forte di quello che era, per cui doveva fare questa vittoria, l'ha fatta secondo me con discreta autorità, e come tale deve essere commentata. Poi da qui a pensare che la Juve abbia fatto un salto di qualità definitivo in Europa, non vuol dire niente, semplicemente ha cominciato bene con due gol di un giocatore che insomma, è importantissimo, quindi ha fatto il suo, la Juventus ha fatto quello che doveva fare, né più né meno. Giuseppe, provincia di Messina, 800 24 00 24, per parlare con noi tutti i giorni dalle 2 alle 4, dica. Sì, buon pomeriggio. Senta, io sono tifoso juventino evidentemente, e volevo ricordare che la Juventus è l'unica squadra al mondo probabilmente ad avere tutte le coppe. Detto questo, se un paio d'anni che vi sento parlare di pedigree europeo di Conte, della Juventus e quant'altro, io vi voglio ricordare che fin quando la coppa sarà così, o peggio ancora ad eliminazione diretta, cioè che le squadre non si incontreranno mai tra di loro tutte, non avrà mai a livello tecnico, attenzione, non economico, a livello tecnico da allenatore, non avrà mai la stessa importanza del campionato. Per me, da tifoso juventino, in cui la Juve ha vinto tutte le coppe possibili e immaginabili, conta sempre il campionato, perché ti incontri con tutte. Sì, poi adesso... Io non credo che il Malmo sia superiore all'Atalanta, al Chievo o quant'altro. Non lo so, secondo grazie, me sono grazie a lei. Poi adesso il prossimo che arriva, che magari Francesco da Ravenna, dice per forza in Europa non possono contare su certi aiuti, perché sappiamo bene come vanno questi discorsi, questo refrain, eccetera. Sono semplicemente due cose diverse, no? No, ma la Juve storicamente, ma ci sono squadre anche in Grecia, per esempio, c'è una grande differenza tra l'impiego e Panathinaikos come attività europea, come rapporto tra scudetti e competizioni europee, è una tendenza. Poi è vero che la Juve ha vinto tutte le coppe, e questa è una prerogativa, ma è anche vero che ha vinto meno Champions rispetto al Milan, per esempio, e ha vinto più campionati rispetto al Milan, però non c'è niente di male, voglio dire, sono due diversi territori nei quali società diverse ottengono risultati differenti, insomma non starei a fare chissà quali questioni filosofiche su questo. Poi che negli ultimi anni la Juve in Europa non abbia avuto la stessa qualità di risultati del calcio che ha ottenuto in Italia è abbastanza evidente, probabilmente dipende anche dal fatto che in Europa è più difficile, perché è vero che in Italia, come dice l'ascoltatore, devi affrontarle tutte, ma è anche vero che in Europa poi ci sono il Bayern, il Real Madrid, il Chelsea, che sì, è chiaro che la è un po' triste per il calcio italiano. Ma no, ma poi abbiamo detto è evidente che la Champions League, così come i mondiali, così come tutti i tornei in cui ci sono partite dentro fuori, comportano una componente aleatoria che è in parte la loro fortuna, il loro bello, eccetera. Non è solo alea, non è solo attitudine, entrano in questo molte altre cose. Però ad esempio quando il Milan era il Milan, insomma, aveva un carisma europeo, per cui per le avversarie andare in campo con il Milan, insomma, era già qualcosa di difficile, perché contano anche queste cose, soprattutto su un torneo che si gioca poi dentro fuori. La differenza fondamentale, chiaramente in campionato i valori vengono con più chiarezza, no? Ah, sì, sono la maratona. Essere fortunato una volta, due, tre, ma 38 partite non le vinci se non hai una certa qualità. Certo, in Champions non sempre la squadra migliore vince, questo è vero. È anche vero però, secondo me, che per quella che è la dinamica che è esistita spesso in Italia, in campionato tante partite le vinci quasi di inerzia con la qualità degli uomini. Sì. In Champions League, secondo me, se non hai un'idea alta di gioco, cioè se non sai giocare a pallone in un certo modo, difficilmente. No, ma poi anni fa, per carità, però insomma possiamo fare mille paralleli. Il campionato sono i 10.000 metri, la Champions League sono i 200 metri o i 100, sono uno sprint. È chiaro che sono quasi sport diversi, ci sono mille differenze, mille componenti, questo è chiaro. Veloci, Francesco da Ravenna, buongiorno. Buongiorno Francesco da Ravenna. E uno. Francesco da Ravenna e due. Francesco da Ravenna e tre. E tre. Facciamo dopo. Se questo fosse vero amore. Ciro Immobile, attenzione alla velocità di Ciro Immobile che attacca Koscielny. Immobile ancora, prova a andare via, ancora Immobile, Ciro Immobile al 45esimo minuto, dopo che si è fatto 50 metri di campo, segna il suo primo gol in Champions League. Bene, sono contento, qualcuno già stava parlando di fallimento, di robe. È normale avere difficoltà all'inizio, si parla tanto dei stranieri che vengono in Italia, ma non ci dimentichiamo che io qua sono straniero, quindi è normale difficoltà all'inizio, devo lavorare, sto lavorando tanto perché come giusto che sia, poi il mister e i compagni sono stupendi, mi aiutano e quindi per me è importante questo. Adesso sono curioso di fare questo faccia a faccia tra Pierluigi Pardo e il mio amico Jerry De Rosa, perché uno per Mediaset grande. E l'altro per Sky hanno commentato la stessa partita, cioè il gol di Immobile, la vittoria del Borussia Dortmund sull'Arsenal, eccetera eccetera. Ciao Jerry. Ciao Carlo, ciao Pier. Ciao. Allora, la tua voce abbiamo sentita raccontando il gol di Immobile, no? Come hai visto? Sì. Come hai visto Immobile, come hai visto il Borussia Dortmund e anche l'Arsenal, già che ci siamo. Poi ti confrontiamo con Pardo. Intanto il confronto mi spaventa, diciamolo subito. No, diciamo che Immobile l'ho visto benissimo sin dai primi minuti, una reattività anche nei primi scatti davvero notevole per un giocatore così che sembrava poter avere in questi primi mesi qualche difficoltà, perché non giocava titolare, perché all'inizio della Bundesliga, a parte una partita, Ramos giocava, invece è entrato proprio con lo spirito giusto, subito a inseguire palloni, subito dentro il gioco, e mi sembra che si sia perfettamente integrato in un sistema, quello di Klopp, che sembra fatto apposta per un giocatore come lui. Io credo che l'immagine più significativa sia proprio la risultanza di Klopp al gol di Immobile, no? Quasi forse vedete che avevo ragione a dar fiducia al ragazzo. Pardo. No, beh, condivido pienamente. E se condividi non ci divertiamo più. No, ha giocato bene fin dai primi minuti, ha giocato bene fin da quando, insomma, non sembrava anche potesse essere una giornata stregata, o comunque non aveva ancora fatto gol. C'era il primo tempo, aveva cercato la porta, grandissima regolarità e anche con una certa pericolosità, poi ha fatto i movimenti per la squadra, non è stato particolarmente aiutato dalla mancanza di altruismo di Mkhitaryan, che un paio di volte poteva servirlo. Kel nella parte finale del primo tempo poteva dargli un pallone interessante, ha scelto Aubameyang. Insomma, a me è piaciuto molto ieri, mi è piaciuto da morire anche Aubameyang. Non so che ne pensa Geri, magari l'argomento è poco da radio generalista, no? Alle 2 del pomeriggio potrebbe essere il crollo dell'ascolto e del desiderio. Questo ragazzo, tra l'altro, ricordiamo negli anni del divaglio del Milan, è veramente ormai un giocatore fatto, sì, finito, fortissimo, talentuoso. Però insomma, Ciro bene, 7 e mezzo, partita di altissimo profilo. Poi c'erano le facce di Klopp, che comunque è uno che non si tira mai indietro, no? È uno che esprime in maniera molto chiara, molto precisa i suoi sentimenti, mi sembra, sì, che insomma. Dall'altra parte, molto male l'Arsenal, mi pare. Malissimo. Jerry? Sì, sì, malissimo, lento, impacciato, con giocatori un po' anche spauriti, forse anche un minimo sopravvalutati, questo lo vedremo più avanti, però mi è sembrata una squadra, così, non dico un po' alla frutta, ma completamente sovrastata intanto dal punto di vista atletico, arrivava sempre per ultimi sul pallone, poi qualche occasione l'hanno anche avuta, qualche individualità buona c'è, ma mi sembra che si parli proprio di due categorie diverse fra Borussia e Arsenal, almeno al momento. Sì. Prossima sfida sarà fare a Pardo una telecronaca di basket, sei d'accordo? È bravissimo anche in quello. Lì il confronto mi spaventa, anzi non è che mi spaventa, proprio mi do malato. Parliamo un attimo di basket, dai, parliamo di basket. Volentieri, guarda. Volentieri, cioè finiti i mondiali, un comune amico mio di De Rosa è andato in finale guidando la Serbia. Si tratta di Saša Đorđević e quindi il nostro tifo era dichiarato, grandissimo risultato, un mare di folla festante sulle piazze di Belgrado, e questo conta, l'oro degli Stati Uniti era scritto. Sì, sì, non c'è dubbio, io sarei stato obiettivamente curioso di vedere la finale con la Spagna ha pagato la sua presunzione in una partita, ma fino a quella l'ha giocato magnificamente, forse proprio per quello ha giocato con presunzione la partita che contava di più, e per fortuna ci sono ancora momenti in cui la presunzione viene punita, cosa non così comune non solo nello sport, però abbiamo visto un mondiale che dimostra che anche quando non hai le stelle puoi giocare una buona a pallacanestro, essere competitivo, non a livello degli Stati Uniti, perché loro più che in attacco, quando difendono, sono ancora di un altro pianeta. Sì. Grazie Jerry. Grazie a voi. Grazie. Ciao, ciao Jerry De Rosa. Presunzione paga, gli spagnoli stanno diventando un po' presuntuosetti, ha pagato nel calcio, ha pagato nella pallacanestro, magari pagherà anche da altre parti, ha pagato anche sulla pista di Misano, per esempio. Senti, no Pardo, ti volevo chiedere un'ultima cosa. Dammi in un minuto e mezzo, dammi una pennellata sulla partita che aspetta la Roma stasera, che tu andrai a vedere. Beh, è una grande partita, la partita secondo me dalla quale dipenderà poi anche la strategia della Roma in Champions League, perché chiaramente tutti i giocatori vogliono giocare tutte e 6 le partite in maniera molto chiara, precisa, senza lesinare nessuna energia, però insomma è chiaro che stasera la Roma vince. Comincia a pensare a qualcosa di possibile a proposito della qualificazione. Se dovesse invece essere un risultato negativo, forse qualche ragionamento diverso lo si potrebbe fare, anche se paridere fare un discorso del genere a metà settembre, però secondo me è la verità, insomma, inconsciamente potrebbe anche esserci questo pensiero. L'altro giorno Garcia ha scelto una formazione comunque con molti cambi, quest'anno la Roma ha la possibilità di fare delle rotazioni molto forti, anzi le deve fare, perché è un modo anche per tenere tutti sulla corda e quindi per arrivare nel migliore dei modi a ogni partita. Io mi aspetto una grande notte, mi aspetto una Roma, la Roma delle prime 2 partite non è stata meravigliosa come in certi picchi di rendimento, sì, dell'anno scorso, però è stata molto robusta, un po' come la Juve, cioè ha vinto le partite senza strafare, sì, senza strare, mostrando una certa solidità. È chiaro che il CSK è più avanti nella preparazione. No, sono vediamo. Molto curioso, ma sono io molto curioso anch'io. Penso che la Roma abbia un po' tenuto le sue emozioni, se non le energie, proprio per questa partita. Stasera abbiamo la prova e domani ne parliamo. Per Luigi, ciao. Ciao, baci. Dunque, Bet Corner, quote e pronostici. Dopo l'incoraggiante vittoria della Juve di ieri sera, questa sera tocca alla Roma di Garcia al battesimo europeo nel girone E. Giallorossi in campo alle 20.45 allo Stadio Olimpico contro il CSKA di Mosca, e sono queste le quote SNAI per la partita della Roma. L'1, la vittoria dei giallorossi che sono favoriti, è quotata 1.55, l'X è a 3.85, il 2 invece 6.50. Sempre nel gruppo E, l'altro match è da urlo, si gioca all'Allianz Arena infatti la gara tra Bayern Monaco e Manchester City, con i tedeschi favoriti. L'1, la vittoria dei bavaresi, è quotata 1.67, l'X è a 4, il 2 invece con il successo degli inglesi è quotato 4.75. Nel gruppo F invece in campo Barcellona e Apoel Nicosia, con i catalani nettamente favoriti per la vittoria del match. L'1 infatti è quotato 1.05, l'X è a 13, il 2 invece è quotato 30. Nello stesso girone Ajax Paris Saint Germain è sfida molto interessante, con l'1 quotato 4.75, l'X a 3.65, il 2 invece quotato 1.73. Questa era l'ultima delle quote SNAI di oggi, noi ci risentiamo domani. Se questo fosse vero amore, vero amore, tu non mi lasceresti mai. C'è bisogno di parole per spiegare, no, quello che voglio lo sai. Cross dalla tre quarti, l'ennesimo, Balotelli, Balotelli! Eccolo il primo gol con la maglia del Liverpool sotto la Kop, sblocca la partita, 9 dalla fine. Mario Balotelli tiene vivo il pallone e lo scarica alle spalle di Borjan. Difficile, difficile anche spiegare quello che noi non ci siamo detti mai. Sembrava tutto bellissimo. Stavolta Piantanida, Schiattone e Scaltritti hanno avuto una pericolosa deriva romantica. Un inizio ai confini del blasfemo, come ho detto. Adesso, per celebrare i gol dei due italiani con maglie straniere, Immobile e quell'altro, avete capito di chi si tratta, io non vorrei nemmeno parlarne, però ha fatto un grandissimo gol, che è quello dell'1-0 in una pessima partita del Liverpool. Il Ludogorets giustamente era riuscito a pareggiare praticamente a tempo scaduto, e poi c'è stata una fesseria in comproprietà tra il portiere avversario e l'arbitro, con un rigore molto assurdo, decretato e poi ovviamente trasformato da Gerrard sotto la Kops, perché non poteva che essere così. Quindi il Liverpool, senza meritarlo, con i gol del 45 e poi di Steven Gerrard, vince 2-1. Altro ottimo lampo italiano, no? 800 24 00 24, magari ne vorrà parlare Maurizio, magari ne vorrà parlare Matteo dalla provincia di Verbania, magari ne vorranno parlare altri, vediamo. 800 24 00 24. E mentre c'è chi scrive un messaggio accorato di un tifoso del Torino: a noi ci sono rimasti Larrondo e Barreto, come ci manchi Ciro. Maurizio, buongiorno. Buongiorno, grazie ad avermi convocato. Grazie a lei. Volevo parlare di Pirlo e Allegri. Sì. E volevo dire che il primo anno di Allegri nel Milan, Pirlo inizialmente innanzitutto l'ha fatto giocare fuori ruolo nelle prime partite. Vero, mi ricordo. Dopodiché si è fatto male. Sì. Quando è rientrato, non è più rientrato perché non l'ha più fatto giocare. Quindi può essere anche che una scelta tecnica. Diciamo, adesso è passato tanto tempo, ci si può inventare quello che si vuole. La realtà è questa. Sì, è andata così. In effetti. Poi volevo, in effetti è andata così. Quindi è stata una scelta e non c'entra niente il fatto del contratto. Di c'entra il fatto del contratto, perché la storia era questa. Un giocatore che, insomma, Allegri dice: non so se mi è così utile, non so se è davvero quello cui voglio affidare le chiavi della squadra, non so se davvero voglio giocare con il più forte playmaker del mondo, ma magari non voglio giocare con un playmaker, non voglio avere un accentratore, un giocatore a cui passano tutti i palloni. E tutto quello che lei dice è vero, perché è cronaca. non ha provato a trovargli un'altra collocazione, ma Pirlo è Pirlo ed è grandissimo in quel ruolo lì. Inoltre chiedeva un contratto molto lungo e con molti soldi, e dunque si è deciso, ok, vai via. Quindi la cronistoria della vicenda Allegri Pirlo è stata questa. Ora però si dicono tutti, e io non posso che fidarmi di Pardo ovviamente, ma di chi conosce bene quell'ambiente, l'ambiente juventino, come Mirko Graziano, abbiamo parlato prima, dice no, ma non ci sarà nessun problema, perché tra tutto superato tra Pirlo e Allegri, va bene, vediamo, io voglio crederci. Matteo, provincia di Verbania, buongiorno. Buongiorno Matteo da Domodossola, sono signor Genta, buongiorno. Buongiorno. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Allora io due cose, la prima è che ieri si è vista la cattiveria giusta, perché con queste squadrette qua, Malmo, New Zealand, Copenaghen, il signor Conte andava là con la faccia da presuntuoso, campo per vincere, e poi si puntualmente c'erano le delusioni, quindi può anche essere l'allenatore, può anche. E poi un'altra cosa, voglio rispondere a certi juventini che non sono contenti del cambio di allenatore, guardatevi i fatti, 5 gol fatti, 0 subiti, sì. Questa è la Juventus fino adesso. Beh, ma era anche quella di Conte, eh. Cioè io sono convinto che Allegri sia stato come sempre molto bravo, molto intelligente, ma d'altra parte l'hanno preso per questo, nel tenersi quanto di buono, ed era tanto, con una gestione diversa fatalmente Allegri aveva già costruito, e nel progressivamente, senza fretta, nel mettere, nell'innestare su questo telaio qualche sua nuova e diversa idea, come ad esempio chiaro che è stato gioco forza, no? Ieri, perché mancavano Pirlo e Vidal, rotti tutti e due, sono fuori, non potevano giocare, dunque ha dovuto fare così. Però è stato molto interessante la partita di Lichtsteiner e di Evra. Hanno giocato un'infinità di palloni, hanno usato moltissimo le fasce, cosa che un Conte non accadeva, probabilmente anche per la mancanza di interpreti, o comunque non accadeva con questa continuità. Dunque si è tenuto la solidità di quella difesa, che sta bene, no? Meno battute del campionato, eccetera eccetera eccetera, incensata e incoronata da tutti. Quindi la solidità della fase difensiva juventina è quella, e anzi mi sorprende molto il fatto che comunque la Juventus sia riuscita a reggere, che i difensori juventini, che il pacchetto dietro la Juventus sia riuscito a reggere senza troppi problemi l'assenza di del giocatore chiave, che rimane Barzagli. Poi vediamo, ma fino all'ultima Juventus di Conte era certamente Barzagli. L'anno di esperienza in più per tanti di noi può essere fondamentale quest'anno. Quando parlo di esperienza mi riferisco anche a tutto il percorso che abbiamo fatto, e anche alla partita dell'anno scorso contro il New Zealand, dove comunque pareggiando rischiamo veramente di mettere in pericolo la qualificazione. Così parlava Conte l'anno scorso alla vigilia di un girone che poi è stato un girone del tutto sbagliato. Giulio Bari, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi convocato. Grazie a lei. Un grandissimo tifoso dell'Atletico Madrid, anche se sembra strano pur essendo italiano. Sono socio e abbonato dal 2000. E vado e continuo ad andare ogni 20 giorni al Calderon. Davvero? Mio figlio è nato ieri ed è già socio dalle 9:30 della mattina. Ma grande, ma lei di Bari, sì, o è spagnolo? Di Bari. Tutti gli effetti. Da dove nasce questo? Sì. E da una passione per la maglia. Io ero tifosissimo dell'Atletico di Baltasar, poi di Futre, poi di Chico, che è stato il mio idolo. Davvero? E sono stato compagno di viaggio di Pardo in molti voli internazionali l'anno scorso, in tutte le trasferte dell'Atletico. E infatti, tranne Lisbona. Lisbona, sì, è già persi di vista ed è andata male. No, beh, molto bello sapere questo, molto bello. Particolare perché le dico, sono fortemente preoccupato, perché l'Atletico di quest'anno, pur avendo sbancato il Bernabeu sabato scorso, però è nettamente più debole rispetto a quello dello scorso anno. Sì, sono d'accordo, probabilmente è finita un po' la magia, perché non sto parlando di interpreti. La mia sensazione nel vedere, vabbè, è chiaro che viene da un derby vinto, quindi possono essere solo una montagna di sciocchezze, però nel vedere ieri sera, come in alcune altre occasioni, al di là della partita del Bernabeu, l'Atletico non mi dà più quell'immagine lì, cioè non più la stessa faccia, non più la stessa Beh, posso dire le solite banalità, no? Che piacciono molto a Conte, cattiveria, fame, queste cose, insomma. Mi sembra che sia una squadra un po' normalizzata. Ha preso buoni giocatori, non giocatori straordinari. Mandzukic a me piace molto, gli ha fatto uno splendido gol. Cerci, vediamolo, non sono così convinto che riuscirà ad ambientarsi in quella realtà. Il resto, per il resto, mi sembra che abbia, ripeto, abbia perso la garra, giusto? Giulio, si dice così in Spagna? Sì, sì, certamente. Io dico la verità, sono abbastanza perplesso su alcune scelte, perché aver perso Courtois, che secondo me insieme a Neuer era, è attualmente il portiere più forte al mondo, c'era poco da fare però lì, eh? Sì, no, lì abbiamo pagato a caro prezzo lo scontro in semifinale, perché era già tutto fatto, lui aveva già firmato la cessione per un altro anno, poi invece avevano inserito una clausola per effetto della quale non avrebbe potuto giocare in Champions contro il Chelsea. Alla fine lui ha giocato, Mourinho è esploso e ce l'hanno portato via. Poi sì. Filipe Luis è un terzino che secondo me è straordinario, così di poca stampa, però è fantastico sia in fase offensiva che difensiva. E poi Diego Costa, esteticamente non impeccabile, però per il gioco di Simeone è decisivo. Sì, anche lancio... se posso dire che dei tre è quello secondo cui, che secondo me, insomma, si sentirà di meno Diego Costa. Poi vediamo quanti gol fa Mandzukic. Le dico la verità, dal punto di vista tecnico Mandzukic è nettamente più forte di Diego Costa, è un centravanti diverso. Diego Costa però ha la peculiarità che ogni lancio lungo dell'Atletico lui faceva salire la squadra con quelle sue sferzate improvvise, creava sempre occasioni dal vivo, era guarda, una forza della natura. Esteticamente, vi ripeto, un giocatore normalissimo, però per il gioco di Simeone, fatto di grande ordine tattico, gran collocazione, improvvise ripartenze, era fondamentale. Sì. Cerci invece è un ottimo solista, però temo che abbia bisogno di molto tempo e che con Simeone se non si sacrifica molto in casa difensiva, molto. Lei sa tutto molto meglio di me, però la mia sensazione è proprio quella. Grazie Giulio, buon divertimento nell'andirivieni dalla Spagna. Volevo parlare di un altro argomento. Prima vi ho letto un tweet che, vabbè, è una butade. È tornato a parlare Federica Pellegrini in un'occasione pubblica a Milano, eccetera eccetera, e poi ha fatto questo tweet sulla Costner. Non ho niente contro la Costner, lei lo sa, ho solo detto cosa avrei fatto se mi fossi trovato a scoprire che mio fidanzato si dopava, come nel caso di Schwarzer. L'avrei mollato molti mesi prima, ha detto Federica. Però volevo parlare di un'altra cosa che è invece molto più tecnica, che riguarda Federica Pellegrini. Ne voglio parlare con Lorenzo Vismara, oggi commentatore tecnico Eurosport. Ciao Lorenzo. Ciao a tutti. Ascolta, cambio di allenatore, ennesimo cambio di allenatore contro Luca. Con Luca si era di nuovo finita, non vedevano più le stesse cose. Adesso ha scelto una strada diversa, di un allenatore molto giovane, che è Matteo Giunta. Secondo te quali sono i motivi di questa scelta? Cosa sta cercando Federica Pellegrini? Beh, questo dovresti chiederlo a lei. Io posso dare la mia impressione. Giusto però inquadrare la situazione, Matteo Giunta non è che esce oggi dal nulla, è prima il preparatore atletico e poi l'allenatore che l'ha seguita la scorsa stagione, praticamente facendole fare gli allenamenti che Luca mandava via internet, via sms e quant'altro. Quindi non è proprio un uomo completamente ad allenare Federica. Diciamo che da oggi dovrebbe scrivere anche lui gli allenamenti, poi comunque come tutti gli atleti della nazionale, quindi Federica Pellegrini anche, devono far vedere i propri allenamenti allo staff tecnico generale, che comunque controlla la preparazione annuale. Quindi non è che adesso Federica è, tra virgolette, abbandonata a un allenatore con poca esperienza, sperando che vada bene. Quindi comunque ci sarà il supporto, sia logistico come c'è sempre stato, che soprattutto tecnico, per qualunque necessità, qualunque aiuto che Federica o Matteo Giunta dovessero avere durante la stagione. Sì, con quello strambo francese però Federica è riuscita a tirar fuori i risultati migliori degli ultimi anni, questo è innegabile. Quello è la storia, quindi non si può dubitarne, però è anche vero che Philippe Luca è un tecnico molto esigente e poco incline ai compromessi, quindi già il fatto che la scorsa stagione abbia accettato di venire qualche volta a Verona, abbia accettato che Federica venisse solo qualche volta in Francia per fare, diciamo, gli allenamenti insieme, era già uno strappo grosso per la sua personalità, e che sicuramente è stato causato esclusivamente dal fatto di poter allenare Federica Pellegrini, che è sicuramente una delle star del nuoto mondiale. Sì. non è finta di niente e me la prendo lo stesso, sì, però diciamo, sì, non era un po' la sua caratteristica e non poteva durare tanto. Sì, non, io ho avuto la sensazione che il rapporto si è incrinato su quei 400, che Federica non sente suoi, non vuole più correre, che sono un tormento, una tortura, eccetera. Io posso immaginare, tu hai fatto un nuotatore a livello mondiale, quindi me lo puoi confermare oppure smentire, se non ti va di fare una gara, non te la senti, è inutile insistere, secondo me. No, assolutamente sì, anche perché Federica nasce come velocista, sì, poi dopo arriva ai 200, diciamo, abbastanza presto, ma diciamo l'esplosione vera e propria ce l'ha poi con Castagnetti nei 2 e nei 400, ma ricordiamo che i 400 Federica, parole sue, li faceva perché Alberto Castagnetti voleva che li facesse. Certo. Non per un pezzo, ma perché lui riteneva che i 400 poi sarebbero venuti molto bene anche i 200, poi guarda, sì, caso ha fatto il record del mondo anche nei 400. Sbaglio o Alberto, il sogno di Alberto era quello di portarla addirittura verso gli 800? No, ricordo no, male, perché non aveva le caratteristiche, non ha le caratteristiche per fare un 800 a livello dei 200, quindi sarebbe uno stravolgimento completo della preparazione, non porterebbe a niente. Quello che invece sicuramente conta è che Federica non ha mai amato i 400 e quindi adesso, vedendo una ragazzina, la Ledic, che però è già campionessa olimpica, che fa record del mondo quasi come se piovessero, le ha tolto di quasi 3 secondi record nei 400, mi viene anche da dire, ma cosa faccio? Continuo a allenarmi in questa gara che non mi piace, infatti è decisamente faticoso da preparare, anche se comunque Federica è giovane come ragazza, come donna, come atleta di chilometri ce n'ha già tante alle spalle, quindi pensare di fare una cosa che non ti piace con una avversaria che sicuramente chiude un po' le porte all'ambizione dell'oro olimpico, insomma, mi sembra abbastanza naturale. Però per Luca questo probabilmente non era, visto che lui nella sua mentalità di allenatore ritengo che pensi che i 400 siano propedeutici a fare bene un 200. Sì, però capisci Lorenzo, nella mentalità di un allenatore, però nella mentalità di un atleta diventa quasi inutile imporre un ruolo, possiamo traslare questo discorso sullo sport che ti pare, però diventa molto difficile imporre un ruolo, imporre un qualcosa che tu non vuoi fare, perché infatti la risposta è arrivata è abbastanza evidente. Come pensi che lavorerà Giunta sulla Pellegrini? Ah, sicuramente molto bene, primo perché è la chance della sua vita di allenatore, se fa bene adesso avrà una carriera aperta indipendentemente da chi allenerà dopo di Federica Pellegrini. Poi è un ragazzo che comunque ha nuotato, è nel mondo del nuoto da una vita, certo è, non ha l'esperienza di atleti di così alto livello alle sue spalle, però ripeto, Federica è comunque un atleta straordinario, una professionista quasi unica, e quindi l'unica cosa da fare è lavorare bene, se c'è qualche dubbio con umiltà si chiede allo staff federale un consiglio, collegiale ci si confronta, quindi io francamente non lo vedo un problema. Più che altro mi dispiace che Federica abbia perso tanti anni nella ricerca dell'allenatore ideale, che quello sì, meglio di energie che poteva essere messo in acqua e non fuori da là. Bravissimo, ha perso un po' troppo tempo nel cambiare così spesso allenatore, manco Zamparini. Diciamo che lei ha avuto la grande sfortuna, chiaramente più la famiglia di Alberto Castagnetti, ma sì, poi sì, anche lei, di perdere il suo allenatore guida, e quindi è stata un po' costretta a cercarne un altro. Lei non avrebbe mai cambiato e quindi si è arrivati dove si è arrivati. Grazie Lollo, buon grazie lavoro. Buon ciao giornata. Lorenzo Bismara. Ultima domanda, se tu fossi stato al posto della Costner, cosa avresti fatto? Non è una domanda impossibile, nel senso che io non lo tollero veramente, il doping non lo tollero proprio nella vita, le scorciatoie non le tollero in generale, quindi io non potrei stare insieme a una persona che so che si dopa, quello è il problema. Diciamo in un'ipotesi che fosse successo a Filippo, tu cosa avresti fatto? Ma io l'avrei lasciato. L'avresti mollato? Non lo so, però sicuramente l'avrei mollato. Grazie. Molti mesi prima. Grazie a tutti. Torno all'800240024 con grande piacere, torno a Massimo da Treviso, Renato da Torino. Massimo, buongiorno. Buongiorno, io vorrei fare un piccolo passo indietro e riallacciarmi al discorso di Pirlo. Però purtroppo Pirlo, gli ultimi anni di Milan erano anni che li faceva passeggiando, non più correndo. al di là del fatto che i tre anni di Juve ha corso come in tutta la sua carriera, a parte questo, però no, in tutta la sua carriera non è esatto quasi, ma... però, quasi. Però che abbia, che si sia rimesso in gioco anche fisicamente, è vero che ha avuto diversi problemi fisici, ha avuto un sacco di problemi, perché gli ultimi anni di Milan Pirlo purtroppo non era più un giocatore che ti garantiva una presenza al centro del campo necessaria ad una squadra come il Milan, perché forse non si ricorda che a Istanbul lui e Pirlo e Seedorf nel secondo tempo sono letteralmente spariti, non c'erano più in mezzo al campo. Sì, può esserci qualche episodio, però non tale da giudicare un'epoca. Cioè, allora, no, Pirlo... giudicare un'epoca, no, per l'amor di Dio. No, ma quello che dico, allora, Pirlo è un giocatore molto condizionante, fantastico, ma anche molto condizionante. Se è chiaro che gioca in quel modo, in quel ruolo, che se vuoi Pirlo, miglior centrocampista del mondo, giù di lì, certamente il migliore in quel ruolo, allora lui gioca così. Allora, se gioca così, la squadra si deve adattare. Allora i palloni passano di lì, allora i ritmi li detta lui. È chiaro che è una, diciamo, una scelta di vita calcistica, perché è un giocatore fatalmente condizionante. E detto questo, secondo me è anche fisiologico che uno che passa in una stessa squadra, uno stesso campo di allenamento, facendo la stessa strada tutti i giorni per andarci e tornare poi a casa, insomma, uno che fa questa vita per così tanto tempo, certe volte trova stimoli, e Pirlo li ha trovati, diversi da un'altra parte. Anche questo fa parte della vita di un professionista, non solo nel calcio, credo, Massimo. Quindi tutto questo sorprende relativamente. Certamente Pirlo ha trovato anche più salute, o ha cercato maggiore salute, ha avuto più motivazioni nell'allenarsi meglio. Saranno tutte componenti queste. La cosa che rimane è che se tu sei il Milan, beh, insomma, fai in modo che questo non vada esattamente a giocare nella Juventus, no? Quello che molti tifosi del Milan dicono è questo, insomma, poteva anche starci in quel momento. Certo, avevamo una squadra che ha vinto lo scudetto, avevamo Ibrahimovic e Thiago Silva, avevamo buone prospettive per il futuro. Può anche starci privarsi di una parte importantissima del tuo passato, ma darlo alla Juventus magari anche no. Renato, Torino, buongiorno. Renato Torino, buongiorno. Non è una buona giornata per Renato da Torino. Lo sentiamo? Volete sentire la storia di Sannino? Mi suggerisce Piantanida? Va bene, sentiamo Sannino. Devo sbagliare il meno possibile, perché c'ho in carico i cuori di 30.000, non so quanti sono a Catania i tifosi. C'ho la responsabilità di un budget, di un management societario, di un capitale calciatori. Ci sono tante responsabilità in un allenatore, e io le voglio dire con serenità, come ho sempre fatto, col sorriso, con incazzature, con i baffa, però consapevoli di poter dare e non togliere. Beh, insomma, questa vicenda ci ha lasciato capire, abbiamo avuto ospite l'altro giorno, molto simpatico sempre Sannino, non ci tornava il conto di come un allenatore primo in classifica comunque in Serie B inglese, che è un signor campionato dove girano fior di soldi, non ci tornava il conto, no? Ma perché? Una squadra che può andare in Premier League, ne vince 4 su 5 è primo in classifica e va via. Poi i conti sono tornati in un'altra maniera da un'altra parte del mondo. Allora, restiamo. Renato da Torino c'è o non c'è? Non c'è. Aveva da fare. Benissimo. Restiamo in Sicilia per un attimo, perché passiamo da Sannino, allenatore del Catania, alla grande bugia. Ricordiamo che l'allenatore, se alla terza perde, la manda via di sicuro. Sì. Oggi abbiamo mandato una protesta alla Gazzetta dello Sport. Per cosa? Perché titolava oggi, diceva Iachini in bilico, c'era già non so chi in tribuna, no? Allora mi ha detto di smetterla, perché... Cioè, lei si è arrabbiato perché non è in bilico, l'ha già licenziato, in quel senso. No, è in bilico di sicuro. Quindi lei... Però vogliono fare i titoli e invece... Scusi, Zappa. La Gazzetta è la Gazzetta, sì, no? Certo. Che possiamo... Scusi, Zappa, quindi lei dice che se Iachini perde anche la prossima partita, lo conferma? Anche se perde le prossime 5. Attenzione, no, Zappa, non è vero. Attenzione. No, le prossime 5. Allora, Piff... Non le perderà, ma anche se le perdesse, no, Iachini rimane allenatore tutto l'anno. Della primavera. Della prima squadra. Se questo fosse vero amore, salda e tranquilla. Dobbiamo cercare di migliorare, oggi abbiamo fatto un bel passo avanti sotto tanti aspetti e questa è la cosa più importante. È possibile però che tu debba sempre dimostrare, hai vinto la Champions League? Questo sono dibattiti che alimenta la stampa e quindi anche queste domande non fanno altro che alimentare questo dibattito che non esiste. Stiamo sbagliando. Allora, ieri ci sono stati due gol della Juventus che ha iniziato con il piede giusto, cioè quello di Tevez due volte. Il gol di Balotelli, quello di Immobile, Bell'1-1 di Prandelli non benissimo, così come l'eurodebutto di Cerci con l'Atletico Madrid. Ma ci sono stati anche i 5 del Real Madrid, è chiaro c'era il Basilea, il Bernabeu, però di questi tempi può esserci chi vuole. Ci sono i fischiatori in agguato. Filippo Maria Ricci. Buon pomeriggio. Carletto ha fatto cantare i fischiatori e gli ululatori. Sì, è stato bello quando dopo ha detto, dice no, io i fischi non li sento, però li sento invece quando cantano. Certo, è apposta che te l'ho detto. Ha fatto cantare i fischiatori. Però non si spiega, cioè voglio dire, sto pubblico del Bernabeu è insopportabile. Cioè, voglio dire, tu compri il biglietto, vieni lì per fischiare il tuo portiere, ma dai. Cioè, poi il portiere che sono 24 anni che ha, al Madrid, 15 nella prima squadra, il 15 settembre erano appunto 15 anni che debuttò, il 12 che debuttava in, con la Madrid in Liga, ma voglio dire, sono storie vecchie legate a Mourinho, ma lasciatelo perdere, insomma. Cioè, voglio dire, non... però certo, detto questo, sì, non si capisce perché il Real Madrid abbia più o meno messo alla porta Diego Lopez e speso 10 milioni per comprare Keylor Navas. Lì, diciamo, questa non l'ho capita proprio... nemmeno io, cioè non c'è tanta chiarezza, per cui sì, però poi dopo alla fine Benzema segna il gol numero 1000, no? Come quello dell'osteria, che succede? Se ne va, lo fischiano, e vabbè, allora dai, cioè, Sergio Ramos tira una punizione, in effetti, cioè, lì con tutti c'hai Ronaldo, Bale, sì, chi tira la punizione, il grande, il siciliano, l'andaluso, la vita, arriva lì, petto gonfio, tiro io, la punizione finisce tipo al quarto anello, e c'era la tentazione di fischiarlo, dico va bene, è un po' coatto, sì, però voglio dire, ha fatto tre gol tra semifinale e finale della Champions. Ma sì, ma poi di cosa stiamo parlando? È appena vinto la decima, è una squadra che fa paura, di cosa stiamo parlando? Niente, tutto, cioè, c'è grande nervosismo. Sono degli isterici questi che vanno lì al Bernabeu e non veramente non ho. Ma che vogliono? Che vogliono? Esatto. Ma perché poi dopo, quando Iker fa la sua parata nel secondo tempo, dopo lì non hanno più fischiato. Ma cosa volete? Insomma, sì, l'altro giorno nel derby, poveretto, il gol, sì, c'ha gli elastici, è vero, non si muove dalla linea di porta, d'accordo, no? Non è solo colpa sua, niente, comincia a massacrare. Sì, però Filippo, anche quello lo capisco poco, comunque, perché posso capire perché guadagni una montagna di soldi, quindi non è neanche difficile da, insomma, è anche difficile che segua la strada di Raul, no? Perché poteva essere la strada giusta, c'era un escape da questa situazione. È chiaro che il rapporto è logorato da mille storie e mille cose, quindi sinceramente queste manovre sul portiere io non le capisco bene. Si impunta su un giocatore, quando piglia di mira un giocatore, ma questo non solo a Madrid, quando piglia di mira un giocatore diventa poi difficile. Sì, però sai, poi è ancora peggio perché il portiere, io ti dico, Casillas poteva far di più, nel senso che poteva parlare un pochino di più, comunicare il suo malessere, tutti i problemi con Mourinho, niente, non l'ha fatto, però adesso comunque acqua passata, via, lo accusano di essere la spia dello spogliatoio, quando il primo che parla con i giornalisti è il presidente, dai, non so, vabbè, comunque, detto questo... Poi 5 gol, sì, attenzione, primo tiro al 26esimo, contro una squadra veramente di pellegrini, come si diceva una volta, ma veramente tremendi questi. Beh, ho capito, di pellegrini, bisogna trovare il senso della misura, cioè non ci sono più le squadre Materasso, sono pericolose, ci sono ancora i pellegrini, perché poi vedi Liverpool-Ludogorets e dici, ha giocato meglio quelli, è chiaro che il Liverpool. Il Basile l'anno scorso ha battuto due volte il Chelsea. Appunto, quindi... Però la squadra che ho visto ieri sera era quella che hai visto ieri sera, poi magari è stato il Real a farla diventare così. sì, però ti dico, comunque, detto tutto, Ancelotti vuol dire quello che gli pare, c'è un problema tecnico, secondo me, importante, e il Real Madrid non ha un giocatore di copertura, cioè gli manca Makelele, venduto Xabi Alonso, fanno fare, io l'ho scritto l'altro giorno, Toni Kroos, Makelele bianco, vediamo contro squadre serie, perché comunque ieri sera giocavano in quattro in attacco, James tornava così, proprio camminando, come quando cioè, io e te andiamo Ma guarda, adesso allora facciamo così, ho il traffico, poi ne parliamo. Secondo me forse il vero problema è la collocazione di James, James, stella del mondiale, giocatore stra iperpagato, grande colpo del mercato, perché è quello che probabilmente non permette ad Ancelotti in questo momento di trovare la chiusura del cerchio. Detto questo, poi quando vedi un gol come quello quinto del Real, quello segnato da Benzema, vabbè, che ti viene da dire? O quando vedi quei due lanci di Modric d'esterno, vabbè, che vuoi dire? Lo spinto non lo oigo, però deve essere quando la fission canta come non te vuoi a querer, lo oigo, no? Perché quiero ser positivo nella vita. Quasi tutti ci danno per spacciati per uscire dal girone. Però come ho detto prima, affronteremo tranquillamente, a viso aperto, senza aver paura di nessuno. Un'ultima domanda, dicono che per lo scudetto rinuncia al gelato, per la Champions? Mi rimangio il gelato allora. È chiaro che si rimangia il gelato, il pupone, Filippo. Grandissimo, grandissimo. Grande prontezza. No, ma poi per la Roma stasera partita chiave, ne accennavamo prima, ne parleremo domani. Anche perché sai, a Monaco di Baviera sono ricominciati gli scazzi, no? Tra Pep e il Kaiser. No, sono normali, però. Eh? Il Kaiser rompe, fa il suo mestiere. Non gli piace, non lo manda giù. No. Nonostante Guardiola abbia scritto non lui personalmente, però chi ha fatto il libro sul suo primo anno al Bayern ha intitolato un capitolo Odio eterno al tiki taka. Sì. Ma perché non è così? Non crede nessuno. Perché è così? Ma perché non è nel loro DNA, nella loro cultura. Figurati se questi mollano, figurati se il Kaiser gliene fa passare una. Dimmi invece di Rodriguez, del Real, e poi di questo messaggio Ancelotti che le prende sempre dall'Atletico al Bernabeu. Non potrà mai essere osannato dai madrileni. Non esageriamo, no, ma i madrileni lo apprezzano e lo amano così, solo che hanno la memoria cortissima. C'era l'altro giorno un bel pezzo di Segurola su Marca in cui appunto spiegava che questa è una tifoseria, cioè soprattutto adesso una dirigenza che punta tutto sul subito, sull'ora, sul wicket nunc, cioè la Champions è già dimenticata, la decima, sono passati 3 mesi, un'eternità, e questa è un po' la chiave della situazione. Sono assolutamente sbagliato ovviamente come modo di essere, però così è in questo momento il Real Madrid, cioè si punta sempre su un nuovo acquisto, capito? Capito? Si permettono di fischiare Casillas, che no, in 15 anni gli ha fatto vincere di tutto, perché poi adesso è arrivato James, che non gli ha fatto vincere niente. Era un po' il discorso che faceva Di Maria quando è andato a battere cassa. Sì, lui guadagnava 4, ne chiede 8, gliene vogliono dare 6. E lui dice, ma scusa, ma ne date 8 a Stockham, sei arrivato adesso? Ma funziona così, ma sai benissimo che, che in quel mondo funziona così, perché... Di Maria se n'è andato. Però Di Maria se n'è andato. Di Maria se n'è andato e poi ha detto non mi volevano più, sono dei cattivi. Esatto. Sì, va bene, però adesso il problema è vero, come dicevi tu, appunto, l'inserimento tattico di questo... Perché mi sembrava avere uno che... fortissimo, però non c'entra nulla in questo momento. No, ma soprattutto non c'entra nulla, come Kroos. Kroos è fortissimo, però l'anno scorso giocava con Schweinsteiger o Lahm. È chiaro. E adesso c'è intorno, c'ha Modric, che è un'altra mezza punta riadattata, poveretto, corre come un pazzo, guarda che assist che dà. Ma te l'ho detto prima. Due delle cose più belle che ho visto ieri sera. Esatto, ieri sera spettacolare, però non è quello che se ce la mette la gamba, ci può andare una volta, due, però alla fine dice poi deve correre anche per Bale, perché mai il gallese nato terzino fa la punta. Non corre più. No, fa la punta. Lui è la punta, va solo in avanti. Sprinta negli ultimi 20 metri. Indietro non sa più correre, ci torna proprio a fatica, un po' come Fonti, capito? Che non sa chiedere scusa, Bale non riesce più a correre lì. Come Balotelli, insomma. Esatto, per cui capito, no, adesso Balotelli però si sforza, occhio, si sta impegnando. No, però dico, non mi distrarre con altri temi succosi, però dico, quindi Bale non corre. Hames, io oggi ho definito i suoi rientri da yoga posizionale, perché tornava lì al piccolo trotto, arrivava. Però se li può permettere tutti e quattro così davanti in partite, diciamo, impegnative, secondo me non ce la fanno. Detto Cross, io lo vedo spaesato, è chiaro che è un grandissimo giocatore, però non era quello il suo ruolo, non è uno, appunto, non è né Xabi Alonso né men che meno Makelele. Ti ricordi quando questi hanno vinto la finale a Glasgow? Makelele giocava con Figo, Zidane. Sì, no. Ma Raul, certo, ma Solari, certo, ma l'abbiamo detto molte volte. Alla fine le squadre sono un'orchestra che deve trovare equilibri. Sì, venduto il francese, è cominciato il declino della prima era galattica. Certo, vediamo, certo. Vediamo come va a finire qua. Quella storia ce la ricordiamo bene. Adesso vediamo come va a finire, questa. Perché Ancelotti si trova una squadra che è molto difficile da equilibrare. Questo è evidente. Sì. Piuttosto, come vedi quelli che il derby di Madrid lo hanno vinto? Io dicevo prima, non benissimo. Mi sembra che non abbiano più la stessa luce negli occhi. Al di là degli interpreti che sono cambiati, e questo è certamente importante. Quello che vuoi, allora, però non mi sembrano che abbiano più lo stesso linguaggio del corpo. Insomma, non fammi dire la stessa fame, sete, rabbia, cattiveria, cazzim, cose da conto. Pensavo, però l'altra sera al Bernabeu hanno fatto una buona partita, sbagliando completamente il primo tempo. Il problema sai qual è? Simeone che sta facendo degli errori piccoli e grandi, perché l'altro giorno al Bernabeu lui è entrato con sto Raul Jiménez, messicano nuovo, e che non ha toccato palla, e ha poi riuscito a correggere la squadra dalla tribuna, e quando sono entrati Arda Turan e Griezmann l'Atletico è decollato anche grazie al calo del Madrid. Ieri perché ha dovuto cambiare il portiere? Cioè, hanno speso 16 milioni per portare sto Oblak, no? Va bene, e poi si è fatto male, e quindi diciamo all'inizio di stagione Moya sta giocando molto bene, ha fatto una gran partita al derby, insomma, ieri l'ha cambiato, e dopo tre tiri, tre gol. Lo stesso Raul Jiménez, titolare nel derby, ieri è finito in tribuna, vedo una certa confusione, cioè il ciolismo che era appunto... Certo. Ma quello che ti dico, non mi sorprende neanche che abbiano fatto una grande partita al Bernabéu, perché credo che sia comunque un'eccellente squadra, una grande squadra, la squadra campione di Spagna, credo che sarà in grado di fare grandi partite, ma sul piano della continuità non li vedo quelli dell'anno scorso. Secco, secondo te la sconfitta dell'Atletico Madrid ieri sul campo dell'Olympiacos è un vantaggio o uno svantaggio per la Juventus? No, alla fine per me è un vantaggio, perché un Atletico molto forte sì, poteva aiutare sul fatto che l'Olympiacos fosse fuori, però io lo sapevo che l'Olympiacos non era fuori, perché l'Olympiacos è arrivata a un passo da eliminare il Manchester United dell'anno scorso, per cui considerando l'Olympiacos meglio che si spargano un po' i punti. Adesso ti dico, se la Juventus viene qui e non perde al Calderone, ha già fatto qualcosa di importante, comincia a diventare una partita importantissima la prossima di quel girone che riguarda Atletico e Juventus. Filippo, grazie, un abbraccio. Ciao. Grazie come sempre. Franco Piantini, dottore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, Claudia Schiattone in redazione. Ci sentiamo domani alle 2, tutti convocati. Ciao. Sono saggio. La squalifica deve essere stata terribile. 9 mesi, che bastardi. Quel coglione se lo meritava. Ho dovuto lavorare molto, schiavare dentro me stesso. Avevo bisogno di trovare qualcosa che mi riempisse la vita di un obiettivo. È buffo, no? A volte dimentichiamo che sei un uomo. Non sono un uomo. Sono un campionato.